l'effetto non può che essere di una grande preoccupazione, nel senso che innanzitutto una proposta del genere parte dal presupposto che gli alloggi popolari siano di per sé un veicolo di delinquenza, devianza, degrado, per usare una terminologia cara sicuramente a chi ha fatto questa proposta, e questa è la prima considerazione che dobbiamo fare, perché è qualcosa che veramente è inaccettabile, perché classifica la popolazione e la sua predisposizione verso il vivere nella collettività a seconda di una condizione sociale, reddituale o di provenienza geografica, perché sappiamo che poi negli alloggi popolari ci sono molte persone migranti. Ci deve preoccupare anche il fatto che poi a questo modo di pensare se ne associ un altro, che è quello che ha determinati fenomeni, e adesso non sto a indagare quanto siano precisi nei loro contorni o gonfiati, e mi sembra che spesso si tenda molto a gonfiare l'entità di questi processi per creare un clima allarmistico. Ecco che comunque l'approccio debba essere quello che chiamiamo securitario, cioè ci devono essere le forze dell'ordine sparse sul territorio in modo talmente capillare che bisogna farle abitare dentro gli alloggi popolari, cioè devono risiedere lì in modo che ne abbiano un controllo quotidiano. Queste sono due aberrazioni, e la cosa che trovo preoccupante è che non ci sia una risposta molto netta da parte dell'amministrazione su questo. Io ieri leggevo che in un'intervista al Corriere di Bologna il giornalista che chiedeva alla presidente del quartiere navile un commento precisamente su questa proposta, la presidente letteralmente ha risposto: a questa eventualità non si è chiusa la porta ma andrà valutata, che è una risposta pericolosa, perché è come dire sì, magari non si potrà fare mai, perché dal punto di vista tecnico per fortuna le regole di assegnazione degli alloggi popolari non contemplano queste varianti, chiamiamole così, e quindi magari non si farà mai, però peccato, no? In fondo forse una bella idea che avremmo potuto valutare e non le escludiamo. Allora questo mostra un orizzonte culturale in cui delle proposte che vengono da settori certo non progressisti, diciamo così con eufemismo, della città, si vanno a saldare con delle tendenze che l'amministrazione in qualche modo non ostacola e a volte addirittura a seconda, perché vorrei ricordare che il sindaco Lepore più volte è tornato sulla questione della Bolognina, disegnata come un luogo ormai veramente in balia di varie forme di delinquenza, chiedendo sempre invariabilmente una maggiore presenza di polizia, quindi ritorna questo tema per cui il controllo del territorio è un controllo necessariamente poliziesco, ed è un modello che il sindaco vorrebbe in qualche modo estendere alla città. Ricordo che nel gennaio 2023 firmò con il ministro dell'interno Piantedosi il patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità di Bologna, che va esattamente in quella direzione. Ricordo ancora, a proposito di episodi che si connettono tra loro e che mostrano una continuità culturale, che sempre il sindaco Lepore aveva sostenuto la linea del questore mesi fa, quando si era deciso di procedere alla fotosegnalazione preventiva dei ragazzi, anche minorenni, che arrivano a Bologna il sabato sera per trascorrere il sabato in città, che è una vera e propria aberrazione a pensarci un attimo. Ecco, quindi quello che mi preoccupa è la circolazione in città di idee che poi magari in alcuni casi specifici non trovano, diciamo, una realizzazione in quella proposta specifica che è stata avanzata, quindi questa magari non verrà mai attuata, però è una circolazione culturale che deve preoccupare, perché è sintomo di un approccio alla questione del vivere nella collettività che va in una direzione sostanzialmente autoritaria, che credo dobbiamo veramente respingere. Tu di recente hai firmato per Napoli Monitor un articolo che riguardava invece il co-housing di Fioravanti 24. In quel caso non si trattava di case popolari, ma comunque di case pubbliche. È in atto uno snaturamento del diritto all'abitare per scopi altri? Sì, io facevo notare in quell'articolo, era riferito al co-housing Fioravanti, quello nato sulle ceneri in senso letterale, perché parlo delle ceneri dell'XM24 che fu abbattuto con le ruspe per volontà del comune di Bologna. Su quello è stato fatto un bando di assegnazione che prevede, accanto a delle regole oggettive normative, le classiche regole per l'assegnazione degli alloggi pubblici basati su reddito, situazione familiare, eccetera, eccetera, delle norme invece di carattere completamente diverso e inedito che vanno a valutare i comportamenti delle persone. Cioè si va a valutare se le persone, in base a dei criteri etici o comunque di carattere soggettivo, possono o no avere diritto da un alloggio pubblico, non solo alloggi popolari, ma sempre di alloggi pubblici si tratta, quindi facevo notare come far entrare questa sperimentazione, chiamiamola così, anche su un ambito ristretto, lì si parla di 10 alloggi nell'ambito dell'edilizia residenziale sociale, poi apre un varco verso altre possibilità e comunque anche quello è un segnale molto negativo di come una certa cultura del merito, in questo caso, no? Va a inficiare le politiche pubbliche. Invito a leggere le cose nelle loro connessioni non immediate, perché non c'è apparentemente nessuna parentela, ovviamente, tra la proposta dell'ASCOM sulla presenza delle condizioni nelle case dell'ACER e il bando del comune per l'assegnazione degli alloggi in co-housing e via fino avanti. Però proprio perché non dobbiamo semplicemente limitarci ad accostare cose distanti, ma a leggerne una possibile confluenza, se ci pensiamo bene, alla base c'è sempre un approccio legato a un'ideologia di merito, del merito, in cui qualcuno deve valutare se qualcun altro ha i requisiti per stare, per esempio, negli alloggi pubblici. E questo non ci deve preoccupare solo quando questo qualcuno assume la forma autoritaria della polizia, ma ci deve preoccupare anche quando ha il volto apparentemente neutrale e tecnico di una commissione di valutazione.